La sua morte fu accolta da Françoise con più pietà rispetto a quella di Albertine. Assunse immediatamente il suo ruolo di prefica e commentò la memoria del morto con lamentazioni, con trenodie disperate. Esibiva il suo dolore e prendeva un'espressione indifferente, volgendo altrove la testa solo quando io, mio malgrado, lasciavo vedere il mio, che lei voleva far credere di non avere visto. E infatti, come molte persone nevrotiche, il nervosismo degli altri, troppo simile probabilmente al suo, la esasperava. Le piaceva adesso esibire i suoi minimi torcicollo, capogiri o ammaccature, ma se io parlavo di qualcuno dei miei mali, lei, ridiventata stoica e grave, faceva finta di non aver sentito. «Povero marchese», diceva, sebbene non potesse impedirsi di pensare che Saint-Louis avesse fatto l'impossibile per restare a casa e, una volta chiamato alle armi, per fuggire davanti al pericolo. «Povera signora», diceva, pensando a Madame de Marsan, «chissà come avrà pianto quando ha saputo della morte del suo ragazzo. Almeno avesse potuto rivederlo, ma forse è meglio che non abbia potuto perché aveva il naso in due pezzi. Era tutto sfigurato». E gli occhi di Françoise si riempivano di lacrime, attraverso le quali traspariva però la curiosità crudele della contadina. Sicuramente Françoise compiangeva il dolore di Madame de Marsan con tutto il cuore, ma le dispiaceva non conoscere la forma da esso assunta e non potersene offrire lo spettacolo e l'afflizione. E siccome le sarebbe piaciuto piangere e che io la vedessi piangere, per mettersi in condizione, disse: «Mi ha fatto un certo effetto». Anche su di me spiava le tracce del dolore con un'avidità che mi fece simulare una certa indifferenza, parlando di Robert, e più che altro, certo, per spirito d'imitazione e per averlo sentito dire, giacché vi sono modi di dire ricorrenti nelle cucine come nei cenacoli, ripeteva, non senza metterci del resto la soddisfazione di un povero: «Tutte le sue ricchezze non gli hanno impedito di morire come chiunque altro e non gli servono più a niente». Il maggiordomo approfittò dell'occasione per dire a Françoise che la cosa era indubbiamente triste, ma contava ben poco rispetto ai milioni di uomini che cadevano ogni giorno, malgrado tutti gli sforzi che faceva il governo per tenerlo nascosto. Ma stavolta il maggiordomo non riuscì ad aumentare il dolore di Françoise come aveva sperato. Lei, infatti, gli rispose: «È vero che muoiono anche loro per la Francia, ma sono degli sconosciuti. È sempre più interessante quando sono genti che conosciamo». E Françoise, che trovava piacere nel piangere, aggiunse anche: «Voglio che mi sia avverta se si parla della morte del marchese sul giornale». Robert mi aveva detto spesso con tristezza, molto prima della guerra: «Oh, la mia vita, meglio non parlarne. Sono un uomo già condannato». Alludeva al vizio che sino a quel momento era riuscito a nascondere a tutti, ma che conosceva e di cui esagerava forse a se stesso la gravità, così come i ragazzi che fanno per la prima volta l'amore o che prima ancora cercano da soli il piacere, si immaginano simili alla pianta che non può disseminare il suo polline senza morire subito dopo. Forse questa esagerazione dipendeva, per Saint-Luc come per i ragazzi, oltre che dall'idea del peccato con cui non ci si è ancora familiarizzati, dal fatto che una sensazione così nuova ha una forza quasi terribile che s'andrà poi attenuando. Oppure aveva, giustificato magari dalla fine di suo padre, morto abbastanza giovane, il presentimento della propria scomparsa prematura. Un tale presentimento, certo, pare impossibile, eppure la morte sembra soggetta a certe leggi. Spesso, per esempio, si direbbe che gli esseri nati da genitori morti molto vecchi o molto giovani siano quasi costretti a morire alla stessa età. I primi, trascinando fino a 100 anni sofferenze e malattie incurabili. Gli altri, a dispetto d'un'esistenza felice e sana, portati via alla data inevitabile e prematura da un male così opportuno e accidentale, per quanto profonde possano essere le sue radici nel temperamento, da apparire solo come la formalità necessaria alla realizzazione della morte. E la stessa morte accidentale, come quella di Saint-Leu, legata d'altronde al suo carattere, per più aspetti, forse, di quanti io non abbia creduto di dover dire. Non potrebbe essere anch'essa già scritta, nota solo agli dèi, invisibile agli uomini, ma rivelata da una tristezza per metà inconscia, per metà cosciente, e persino in quest'ultima misura espressa agli altri con la sincerità completa di quanti annunciano sciagure cui credono intimamente di poter sfuggire e che tuttavia si avvereranno. Propria di chi la porta e la scorge di continuo dentro di sé come un motto, una data fatale? Robert doveva essere stato bellissimo nelle sue ultime ore. Lui, che in questa vita aveva sempre dato l'impressione, anche seduto, anche aggirandosi in un salotto, di contenere lo slancio d'una carica, dissimulando con un sorriso la volontà indomabile che c'era nel suo volto triangolare, era andato finalmente alla carica. Sbarazzata dei suoi libri, la torretta feudale era ridiventata militare, e quel Germain era morto più se stesso, o meglio, più della sua razza, con la quale si fondeva, nella quale non era più che un Germain, come fu simbolicamente visibile al suo funerale nella chiesa di Saint-Hilaire a Combray, tutta tappezzata di drappi neri, su cui spiccava in rosso, sotto la corona chiusa, senza l'iniziale del nome di battesimo e senza titoli, il G del Germain, che era ridiventato con la morte. Prima ancora d'andare a quel funerale, che fu celebrato dopo qualche giorno, scrissi a Gilbert: «Forse avrei dovuto scrivere alla duchessa di Germain. Pensavo che avrebbe accolto la morte di Robert con la stessa indifferenza che le avevo visto manifestare per quella di tanti altri, cui la sua vita era parsa così strettamente legata, e che forse avrebbe addirittura cercato, con il suo tipico spirito Germain, di far vedere che non aveva la superstizione dei legami di sangue. Stavo troppo male per scrivere a tutti. In altri tempi avevo creduto che lei e Robert si volessero molto bene, nel senso che questa espressione ha in società, ossia che quando stavano insieme si scambiassero tenerezze che in quel momento erano sincere. Ma lontano da lei, Robert non esitava a definirla idiota. E se lei provava a volte nel vederlo un piacere egoistico, l'avevo vista incapace di fare il minimo sforzo, d'usare anche nel più lieve dei modi il proprio credito per fargli un piacere, persino per evitargli una pena. La cattiveria di cui aveva dato prova nei suoi confronti rifiutandosi di raccomandarlo al generale de Saint-Joseph quando Robert doveva ripartire per il Marocco, provava che le affettuose premure dedicategli in occasione del suo matrimonio erano solo una sorta di compensazione che le costava ben poco. Fui dunque molto stupito quando venni a sapere che alla morte di Robert, poiché non stava bene, avevano ritenuto necessario nasconderle per parecchi giorni, con i più fallaci pretesti, i giornali da cui ne sarebbe venuta a conoscenza, per evitarle il colpo che ne avrebbe avuto. Ma la mia sorpresa aumentò nell'apprendere che quando si fu costretti finalmente a dirle la verità, la duchessa pianse per un giorno intero, si ammalò e le ci volle parecchio tempo, più di una settimana, che per lei era moltissimo, per consolarsi. Quando seppi di questo dolore, ne fui commosso. Grazie ad esso tutti poterono dire, e io posso assicurare, che c'era fra loro una grande amicizia. Ma ricordandomi quante piccole maldicenze, quanta cattiva volontà di aiutarsi essa avesse contenute, penso a che poca cosa è una grande amicizia nella buona società. Un po' più tardi, d'altronde, in una circostanza storicamente più importante, anche se toccava meno il mio cuore, Madame de Germain mi apparve sotto una luce ancora più favorevole. Lei, che da ragazza aveva dato prova, qualcuno lo ricorderà, di tanta impertinente audacia nei confronti della famiglia imperiale di Russia e che da sposata s'era sempre rivolta a loro con una libertà che più d'una volta la fece accusare di mancanza di tatto, fu forse la sola, dopo la rivoluzione russa, a dar prova verso granduchesse e granduchi d'una devozione illimitata. Ancora un anno prima della guerra, aveva non poco irritato la granduchessa Vladimiro, chiamando regolarmente la contessa di Hohenfelsen, moglie morganatica del granduca Paolo, la granduchessa Paolo. Eppure, la rivoluzione russa era a malapena scoppiata che già il nostro ambasciatore a Pietroburgo, Paleolog, Paleo per l'ambiente diplomatico, che ha le sue abbreviazioni pseudospiritose come quello dell'alta società, veniva subissato di telegrammi dalla duchessa di Germain che voleva avere notizie della granduchessa Maria Pavlovna. E per molto tempo le sole attestazioni di simpatia e di rispetto ricevute in continuazione da questa principessa le arrivarono esclusivamente da Madame de Germain. Saint-Louis fu causa, se non con la sua morte, quantomeno con ciò che aveva fatto nelle settimane che la precedettero, di sofferenze maggiori di quelle della duchessa. Infatti, il giorno immediatamente successivo alla sera in cui l'avevo visto e due giorni dopo che Charlieu aveva detto a Morel «mi vendicherò», i tentativi di Saint-Louis per ritrovare Morel avevano avuto effetto. E l'effetto era stato che il generale ai cui ordini Morel avrebbe dovuto trovarsi si era reso conto che Morel era disertore, lo aveva fatto cercare e arrestare e per scusarsi con Saint-Louis della punizione cui sarebbe stata sottoposta una persona che gli stava a cuore, gli aveva scritto per avvertirlo della cosa. Morel tenne per certo che il suo arresto fosse stato provocato dal rancore del signor di Charlieu. Si ricordò le parole «mi vendicherò», pensò che la vendetta fosse quella e chiese di fare delle rivelazioni. «È vero», dichiarò, «ho disertato, ma se mi hanno messo sulla cattiva strada è tutta colpa mia». Raccontò sul signor di Charlieu e sul signor d'Argencourt, col quale pure aveva litigato, certe storie che per la verità non lo riguardavano direttamente, ma che i due, con la duplice espansività degli amanti e degli invertiti, gli avevano raccontate, il che ebbe come conseguenza l'arresto tanto del signor di Charlieu quanto del signor d'Argencourt. L'arresto provocò forse a entrambi meno dolore che a ciascuno di loro, che ne era all'oscuro, scoprire d'avere l'altro per rivale. E l'istruttoria rivelò che ne avevano a non finire di oscuri, di giornalieri raccolti per la strada. Furono d'altronde ben presto rilasciati. Anche Morel, perché la lettera scritta a Saint-Louis dal generale gli fu respinta con questa annotazione: deceduto, morto sul campo dell'onore. Il generale volle, per il defunto, che Morel fosse semplicemente rispedito al fronte. Morel vi si comportò con coraggio, scampò a tutti i pericoli e tornò, a guerra finita, con la croce che il signor di Charlieu aveva invano sollecitato un tempo per lui e che gli fu propiziata indirettamente dalla morte di Saint-Louis. Ho pensato spesso, dopo, ricordando quella croce di guerra smarrita nella casa di Jupien, che se Saint-Louis fosse sopravvissuto avrebbe potuto facilmente farsi eleggere deputato nelle elezioni che seguirono la guerra, con la schiuma di stupidità e lo sfavillio di gloria che questa lasciò dietro di sé, quando, se un dito in meno, abolendo secoli di pregiudizi, consentiva d'entrare mercé un brillante matrimonio in una famiglia aristocratica la croce di guerra, fosse anche stata guadagnata in un ufficio, era sufficiente per entrare con una votazione trionfale alla Camera dei Deputati e quasi all'Académie Française. L'elezione di Saint-Luc, a causa della sua santa famiglia, avrebbe fatto versare fiotti di lacrime e d'inchiostro al signor Arthur Meyer. Ma forse, per pensare di conquistarne i suffragi, Robert amava troppo sinceramente il popolo, che peraltro gli avrebbe certamente perdonato, in considerazione dei suoi quarti di nobiltà, le sue idee democratiche. Saint-Luc le avrebbe esposte certamente con successo davanti a un'assemblea di aviatori. Quegli eroi lo avrebbero senz'altro capito, assieme a pochissime menti superiori. Ma, grazie all'infarinatura del blocco nazionale, erano state ripescate anche le vecchie canaglie della politica, che vengono sempre rielette. Quelle che non ebbero accesso in assemblea di aviatori mendicarono, per entrare almeno all'Académie Française, i voti dei marescialli, di un presidente della Repubblica, di un presidente della Camera, eccetera. Non sarebbero stati favorevoli costoro a Saint-Luc, ma lo erano a un altro habitué di Jupien, il deputato dell'Action Libérale, che fu rieletto senza concorrenti. Non lasciava l'uniforme di ufficiale della territoriale, sebbene la guerra fosse finita da tempo. La sua elezione fu salutata con gioia da tutti i giornali che erano confluiti sul suo nome, dalle signore nobili e ricche che si vestivano ormai solo di stracci, per senso di convenienza e per paura delle imposte, mentre gli uomini della borsa non facevano che comprare diamanti, non per le loro mogli, ma perché, perduta qualsiasi fiducia nel credito pubblico di qualsiasi nazione, si rifugiavano in quella ricchezza tangibile e così facevano salire le Debeers di 1000 franchi. Tanta stupidità provocava un certo fastidio, ma si cominciò ad avercela meno col blocco nazionale quando si videro all'improvviso le vittime del bolscevismo, granduchesse e incenci cui avevano assassinato i mariti in una carriola, i figli, seppellendoli sotto le pietre dopo averli lasciati senza mangiare, fatti lavorare fra gli scherni, buttati nei pozzi perché credevano che avessero la peste e potessero diffonderla. Quelli che erano riusciti a fuggire ricomparvero all'improvviso.